Il terzo anello ad alta voce. La certosa di Parma di Stendhal. Fabrizio non poteva neanche immaginare quello che stava succedendo a Parma. Si trattava in sostanza di vedere se la morte di un attore che da vivo guadagnava 32 franchi al mese avrebbe potuto portare alla caduta del ministero conservatore e del primo ministro, il conte Mosca. Appena saputo della morte di Giletti, il principe, ancora irritato per l'atteggiamento di indipendenza ostentato dalla Sanseverina, aveva ordinato a Rassi, fiscale generale, di impostare tutto il processo come se l'imputato fosse un liberale. Dal canto suo, Fabrizio pensava che un uomo del suo rango fosse al di sopra della legge. Ma c'era una cosa che lui non considerava. I paesi in cui chi ha un nome illustre non è mai punito sono anche i paesi in cui con l'intrigo si può tutto e contro chiunque. 3 giorni dopo la partenza di Pepè, Fabrizio ebbe la sorpresa di ricevere una gran letterona chiusa con un cordoncino di seta, come si usava ai tempi di Luigi XIV, e indirizzata a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Fabrizio del Dongo, primo gran vicario della diocesi di Parma, canonico, eccetera, eccetera. «Ma sono ancora davvero tutta questa roba?» pensò sorridendo. La lettera dell'arcivescovo Landriani era un capolavoro di logica e di chiarezza. In ben 19 pagine c'era raccontato minuziosamente tutto quanto era successo a Parma dopo la morte di Giletti. Se un esercito francese agli ordini del maresciallo Ney avesse marciato sulla città, l'impressione non sarebbe stata più forte. All'infuori della duchessa e di me, dilettissimo figlio, tutti sono convinti che voi abbiate voluto cavarvi il gusto di uccidere Giletti. Se anche vi fosse capitata una disgrazia del genere, queste son cose che si mettono a tacere con 200 Luigi e standosene via qualche mese, ma la Raversi vuole servirsi di questo incidente per rovesciare il conte Mosca. Ciò di cui vi fanno una colpa non è l'aver commesso quel tremendo peccato che è un omicidio, ma soltanto la mancanza di furberia o l'impudenza di cui avete dato prova non degnandovi di ricorrere a un sicario. Adesso Fabrizio poteva vedere come stavano veramente le cose. In tutte le sue lettere, piene di parole affettuose, la duchessa non si era mai preoccupata di riferirgli i fatti. Fabrizio era turbato. Cercò di studiare la lettera dell'arcivescovo. Sfortunatamente l'arcivescovo credeva che Fabrizio fosse più al corrente della situazione. Fabrizio si rese conto che il punto più importante a favore della marchesa Raversi era che non si riuscivano a trovare i testimoni oculari del duello. Il cameriere che per primo aveva portato a Parma la notizia, al momento dell'incidente si trovava all'albergo di Sanguigna. La Marietta e la sua vecchia erano scomparse e il vetturino era stato pagato dalla marchesa per fare una deposizione rivoltante. «Benché la procedura sia circondata dal più profondo mistero», scriveva l'arcivescovo nel suo stile ciceroniano, «e sia diretta dal fiscale generale Rassi, un individuo tale che soltanto la carità cristiana può trattenermi dal dirne male, ma che ha fatto la propria fortuna accanendosi sui poveri accusati come un cane da caccia su una lepre», benché il Rassi, dicevo, la cui turpitudine e venalità sono superiori a ogni immaginazione, abbia ricevuto l'incarico di istruire il processo in un momento di particolare irritazione del principe, io ho avuto modo di leggere le 3 deposizioni del vetturino. Per nostra fortuna lo sciagurato si contraddice e dato che in questo momento sto parlando al mio vicario generale, a colui che dopo di me reggerà questa diocesi, aggiungerò che ho fatto venire il parroco di quel traviato peccatore. Vi dirò, dilettissimo figlio, ma sotto il segreto della confessione, che quel sacerdote ha saputo dalla moglie del vetturino l'ammontare della somma che questi ha ricevuto dalla marchesa Raversi. Non oso dire che la marchesa abbia preteso che quell'uomo vi calognasse, ma la cosa è probabile. Leggendo quella lettera, Fabrizio aveva continuato a interrompersi. Era commosso, riconoscente. Volle rispondere subito e scrisse una lettera di 8 pagine. Fu costretto a alzare la testa molte volte per non bagnare di lacrime il foglio. Il giorno dopo, all'ultimo momento, gli parve di aver usato un tono troppo mondano. La scriverò in latino, pensò. L'arcivescovo ne sarà più contento. E si mise a cercare di costruire delle belle frasi lunghe, in stile ciceroniano. Ma a un certo punto gli venne in mente che l'arcivescovo, una volta, parlando di Napoleone, lo aveva chiamato ostentatamente Buonaparte. Di tutto quello che aveva provato il giorno prima, quando si era commosso fino alle lacrime, non restò di colpo più niente. «Ah, re d'Italia», disse a voce alta, «erano in tanti a giurarti fedeltà quando eri vivo, ma io ti resterò fedele anche dopo la tua morte. Sì, l'arcivescovo mi vuol bene, ma è perché io sono un del Dongo e lui è figlio di un borghese». Ma non voleva che la sua bella lettera in italiano andasse sprecata e allora fece qualche correzione e la spedì a Mosca. Mentre Fabrizio era a caccia d'amore in un paese nei dintorni di Parma, Rassi, il fiscale generale, senza immaginare di averlo a portata di mano, aveva continuato a procedere con l'istruttoria come se si fosse trattato di un liberale, fingendo cioè di non riuscire a trovare testimoni a difesa e in realtà minacciando quelli che c'erano. Finalmente, dopo un abilissimo lavoro durato quasi un anno, un certo venerdì, 2 mesi dopo il ritorno di Fabrizio a Bologna, la Marchesa Raversi, fuori di sé dalla gioia, annunciò pubblicamente nel suo salotto che la sentenza emessa un'ora prima contro il piccolo del Dongo sarebbe stata presentata l'indomani al principe per la firma e l'approvazione. Nel giro di pochi minuti la duchessa fu informata di questa dichiarazione della sua nemica. «Deve essere servito ben male Mosca dai suoi agenti», pensò. Ancora stamattina mi diceva che secondo lui sarebbero passati almeno 8 giorni prima che pronunciassero la sentenza. Poi suonò il campanello e quando venne il cameriere gli disse: «Fa venire in anticamera tutti i domestici, poi vada al comandante della piazza e fatti dare il permesso per avere 4 cavalli di posta e che siano attaccati alla mia carrozza entro mezz'ora». Dopo un po' tutte le donne della casa erano occupate a far valigie. La duchessa si mise in fretta e furia un vestito da viaggio. A Mosca non aveva fatto dire niente, provava una gran soddisfazione all'idea di prenderlo un po' in giro. «Amici», disse infine ai domestici radunati in anticamera, «ho saputo adesso che il mio povero nipote sarà condannato in contumacia per aver osato difendersi da un pazzo furioso, perché era Giletti che voleva ucciderlo. Voi tutti l'avete conosciuto, Fabrizio, sapete bene com'è buono in mite, è una mostruosità, e io ho tutte le ragioni di esserne indignata. Parto per Firenze. Continuerò a pagarvi lo stipendio per 10 anni e se c'è qualcosa che non va, scrivetemi. Finché avrò un soldo, lo dividerò con voi». La duchessa salì in carrozza e si fece portare al palazzo del principe. Qui, malgrado l'ora indebita, pregò il generale Fontana, aiutante di campo di servizio, di sollecitarle un'udienza. A vederla così, senza l'abito di corte, il generale rimase sbigottito. Quanto al principe, lui non fu affatto sorpreso, né tantomeno irritato da quella richiesta di udienza. «Li vedremo piangere quei begli occhi», pensava fregandosi le mani. «Vieni a chiedermi la grazia, è chiaro, bella e orgogliosa com'è, dovrà umiliarsi finalmente. Era insopportabile con quella sua aria d'indipendenza. Ha degli occhi che parlano. Alla minima contrarietà sembrava sempre che mi dicesse: a Napoli o a Milano starei certo molto meglio che non qui, in questa vostra piccola città. D'accordo, io non comando né a Napoli né a Milano, ma adesso la nostra grandama viene a chiedermi qualcosa che dipende unicamente da me e che lei muore dalla voglia di ottenere. Ne sono sempre stato convinto che con quel suo nipote di mezzo qualcosa di buono ci sarebbe scappato. Dopo una ventina di minuti, il fedele generale si presentò di nuovo alla porta, ma senza dir niente. «La duchessa Sanseverina può entrare», disse teatralmente il principe a voce alta. Pensava: «Adesso incominciano i pianti». E come per prepararsi a assistere a quello spettacolo, tirò fuori il fazzoletto. Così viva, così bella, Gina non lo era mai stata. Sembrava che avesse meno di 25 anni. I suoi piccoli passi sfiorarono appena il tappeto, rapidi, leggeri. Quel povero aiutante di campo la guardò e sentì che sarebbe proprio impazzito. «Sono veramente imperdonabile, altezza», disse la duchessa con la sua vocina leggera, piena di allegria, «a essermi presa la libertà di presentarmi con un abito talmente sconveniente. Ma vostra altezza mi ha abituata a tanta bontà che oso sperare anche questa volta nella sua benevolenza». La duchessa parlava piuttosto lentamente. Voleva avere tutto il tempo di godersi la faccia del principe. Era deliziosa. Le era ancora rimasto addosso qualcosa dello sgomento, dell'orgoglio ferito di poco prima. Lo si vedeva da come teneva la testa, dalla posa delle braccia. Il principe era come se gli fosse caduto un fulmine fra capo e collo. Con la sua vocetta aspra, mezzo strozzata dall'emozione, continuava a ripetere: «Come, come?» La duchessa, come se lo facesse per rispetto, gli lasciò tutto il tempo per rispondere. Poi aggiunse: «Oso sperare che Vostra Altezza Serenissima si degni di perdonare l'assurdità del mio abbigliamento». Ma gli occhi le brillavano di tanta ironia che il principe non riuscì a sopportarlo e si mise a guardare il soffitto. Quando faceva così, voleva proprio dire che era imbarazzato fino all'impossibile. «Come, come?» disse ancora. Poi riuscì a mettere insieme una frase intera. «Ma sedetevi, signora duchessa!» E fu con un gesto piuttosto gentile che le spinse avanti una poltrona. La duchessa non si mostrò insensibile a questa cortesia e lo guardò in modo meno sfrontato. Il principe ripeté ancora: «Come, come?» Continuava a agitarsi sulla poltrona. Sembrava che non gli riuscisse di star fermo. «Penso che sia meglio viaggiare di notte col fresco», riprese la duchessa, «e dato che forse starò via per un po' di tempo, prima di lasciare gli stati di Vostra Altezza Serenissima, ho voluto venire a ringraziarla per la benevolenza che si è degnata di dimostrarmi durante questi 5 anni». Il principe aveva capito finalmente. Diventò pallido. Sbagliare una previsione era proprio una cosa che non sopportava. Poi riuscì a prendere un atteggiamento di grandiosità degno in tutto e per tutto del ritratto di Luigi XIV che aveva sotto gli occhi. «Era ora», pensò la duchessa. «Finalmente si comporta da uomo». «E qual è il motivo di questa improvvisa partenza?» chiese il principe in tono abbastanza fermo. «Era molto che ci pensavo», rispose la duchessa. «Ma a farmi decidere è stato un insulto che hanno fatto a Monsignor del Dongo, una cosa da niente. Domani sarà condannato alla prigione, forse a morte». «E dove andrete?» «Credo proprio che andrò a Napoli». E alzandosi aggiunse: «Non mi resta che prender congedo da Vostra Altezza Serenissima e ringraziarla umilmente delle sue bontà di una volta». Stava andando. Era così decisa che il principe capì che tra 2 secondi sarebbe finito tutto. Una volta conclusa la gran scena del congedo, non ci sarebbe stato più niente da fare. Lei non avrebbe ceduto. Si mise a correrle dietro. «Ma, signora duchessa», le disse prendendole la mano, «sapete benissimo che ho sempre provato per voi una grande amicizia. Un'amicizia che avrebbe potuto cambiar nome. Toccava solo a voi deciderlo. Il fatto è che è stato commesso un omicidio. L'istruttoria l'ho affidata ai miei migliori magistrati». La duchessa si drizzò quant'era alta. Niente maniere rispettose adesso, neanche un minimo di cortesia. Era una donna offesa e basta. Una donna offesa che sa benissimo che l'uomo che ha davanti è in mala fede. C'era collera e disprezzo nei suoi occhi. Scandì le parole. «Io lascio per sempre gli stati di Vostra Altezza Serenissima, proprio per non sentir parlare mai più di Rassi e di quegli altri criminali che hanno condannato a morte mio nipote e tanta altra gente. Se Vostra Altezza vuole evitare che un sentimento d'amarezza venga a insinuarsi negli ultimi istanti che io passo in compagnia di un principe cortese e raffinato quando non è vittima di qualche inganno, io la prego umilmente di non ricordarmi quei giudici infami pronti a vendersi per 1 migliaio di scudi o per una decorazione». Il suo tono splendido e soprattutto sincero lasciò il principe sbigottito. Per un attimo ebbe paura che lei potesse accusarlo direttamente e compromettere così la sua dignità. Ma ora si accorse di essere contento in fondo. La ammirava. Era di una bellezza sublime in quel momento. «Dio, com'è bella!» pensò il principe. «Bisogna pur perdonarle qualche cosa. A una donna così non ce n'è un'altra come lei. E con un po' di politica potrei anche riuscire a diventare il suo amante». Ma si interruppe di colpo. Pensò: «Ma ho capito bene. Ha detto quei criminali che hanno condannato mio nipote e tanta altra gente». Gli tornò fuori la rabbia. Dopo un po' di silenzio disse con aria altera: «E che cosa bisognerebbe fare perché la signora non parta?» «Una cosa di cui non siete capace», rispose la duchessa, amara, ironica, con un tono di disprezzo inequivocabile. principe era fuori di sé, ma il suo mestiere di sovrano assoluto lo aveva abituato a trovare la forza di resistere al primo impulso. «Devo averla, questa donna», pensò. «Devo averla, e poi devo farla morire di disprezzo. Se esce da questa stanza non la vedrò mai più». Ma era sconvolto, pieno di rabbia e di odio, e doveva trovare le parole giuste. Doveva dire qualcosa che potesse soddisfare la propria dignità e nello stesso tempo convincere la duchessa a non abbandonare immediatamente la corte. «Attento a non ripeterti», pensò, «attento al ridicolo». E andò a mettersi tra la duchessa e la porta. Qualcuno stava bussando con estrema discrezione. «Chi è quel cretino?» urlò il principe a squarciagola. «Chi è quel maledetto cretino che mi viene tra i piedi?» Il povero generale Fontana mise dentro una faccia pallidissima, completamente sbalordita. Sembrava ormai in agonia. Disse imbrogliandosi: «Sua eccellenza il conte Mosca sollecita l'onore di essere ricevuto». «Che entri!» urlò il principe. Poi, mentre Mosca salutava, gli disse: «E allora? C'è qui la signora duchessa Sanseverina che pretende di lasciare Parma per andare a stabilirsi a Napoli e che oltre a tutto mi dice delle impertinenze». «Ma come?» disse Mosca diventando pallido. «Perché? Non lo sapevate che voleva partire?» «Assolutamente no. Quando ho lasciato la signora alle 6 era allegra, tranquilla». Al principe questa risposta fece un effetto incredibile. Guardò in faccia Mosca. Stava diventando sempre più pallido. Era evidente che aveva detto la verità, che non c'entrava affatto nel colpo di testa della duchessa. La duchessa era alla sinistra del principe. Stava in piedi, le braccia incrociate strette contro il petto. Aveva negli occhi un'espressione di meravigliosa impertinenza. Era molto pallida adesso. Dalla sua faccia era scomparso il rossore dell'eccitazione. A differenza degli altri due, il principe era tutto rosso e nervosissimo. Con la sinistra giocherellava convulsamente con la croce appesa al gran cordone che portava sotto la giacca. Con la destra si accarezzava il mento. «A quanto pare», disse, «di noi tre chi ha più buon senso sono io. Voglio mettere completamente da parte la mia posizione. Voglio parlarvi da amico». E subito aggiunse con un bel sorriso di condiscendenza stile Luigi XIV: «Da amico a amico». Poi disse: «Signora duchessa, che cosa bisogna fare per farvi dimenticare una decisione intempestiva?» «Non lo so, non lo so», disse la duchessa con un gran sospiro. «Davvero non lo so. Mi fa un tale orrore Parma». Non stava facendo dell'ironia. Era sincera. Lo si vedeva benissimo. La duchessa aveva avuto il tempo di riflettere. Parlò lentamente e con fermezza, come se stesse dettando un ultimatum. «Sua Altezza potrebbe scrivermi una di quelle sue belle lettere e dirmi che non è affatto convinta della colpevolezza di Fabrizio del Dongo, gran vicario dell'arcivescovo, e che pertanto non firmerà la sentenza quando verranno a sottoporgliela, e che questo ingiusto procedimento non avrà alcun seguito in futuro». «Come ingiusto?» gridò il principe rosso fino all'inverosimile, furibondo. «E non è tutto», disse la duchessa con una fierezza degna dell'antica Roma. «Stasera stessa, e sono già le 11:15, aggiunse dopo aver guardato la pendola, «stasera stessa Sua Altezza Serenissima farà dire alla Marchesa Raversi che le consiglia un soggiorno in campagna, in modo che si possa riposare dopo tutta la fatica che le è costato quel certo processo di cui parlava nel suo salotto poche ore fa». Fino a quel momento il principe non aveva ancora deciso niente, nonostante le sue parole. Il fatto è che lui alle parole non dava alcun peso. Ma il modo in cui Gina aveva guardato Mosca lo fece decidere. Discussero ancora un poco, ma finalmente Mosca ebbe l'ordine di scrivere quella bella letterina voluta dalla duchessa. Ma Mosca evitò di aggiungere la frase: «Questo ingiusto procedimento non avrà alcun seguito in futuro», pensando: «Basta che si impegni a non firmare la sentenza». Il principe, firmando, lo ringraziò con un'occhiata. Fu un grosso sbaglio da parte di Mosca, perché il principe era stanco e avrebbe firmato qualsiasi cosa. In primo luogo era convinto di essersela cavata piuttosto bene, e poi in tutta quella faccenda lui vedeva soltanto una cosa: se la duchessa parte, fra 8 giorni la mia corte mi sembrerà noiosissima. Poi Mosca vide che il suo padrone correggeva la data mettendo quella del giorno dopo. Guardò la pendola. Era quasi mezzanotte. E allora il ministro pensò che si trattasse soltanto di una pedanteria destinata a dar l'impressione di una grande scrupolosità da buon governante. Quanto alla marchesa Raversi, il principe non fece la minima obiezione. Mandare in esilio qualcuno era una cosa che gli piaceva moltissimo. Pietro Biondi ha letto La Certosa di Parma di Stendhal. Riduzione di Giovanni Piccioni. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.